America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York. Mario Platero, una giornata più rassicurante, quella che abbiamo visto ieri in borsa, una giornata rassicurata anche da dati economici americani positivi, da prospettive di un intervento più forte della Banca Centrale Europea per rassicurare i mercati sulla tenuta dei paesi che oggi si trovano sotto attacco, una spiegazione molto articolata da parte della Federal Reserve dei suoi interventi che, come vedrete, rivelerà come alcuni degli attacchi speculativi che sono giunti contro l'Italia in realtà non hanno ragione di esistere, perché proprio in quella situazione, vi darò maggiori dettagli dopo, abbiamo visto che la Fed ha dato aiuti a tutti tranne che alle banche italiane. Infine, un progresso sul fronte del bilancio americano, o meglio dei tagli per il disavanzo. La commissione bipartisan ha raggiunto un consenso. Partiamo dalla borsa. L'indice Dow Jones è risalito a quota 11.255, un aumento del 2,27%, poca roba in teoria rispetto a quello che ha fatto ad esempio la Spagna, con un aumento che ha sfiorato addirittura il 5%. Ieri la giornata americana è stata dominata da una rivelazione. La banca centrale, la Federal Reserve, ha dato spiegazioni dettagliate dei suoi interventi per cercare di risolvere la situazione di crisi a cavallo del periodo 2007-2009. Ci sono tre elementi che colpiscono nella pletora di documenti riservati sugli interventi della Federal Reserve. Il primo è la dimensione di questi interventi. Pensate, ci sono stati durante la crisi 21.000 prestiti di emergenza a breve per oltre 3.000 miliardi di dollari in un momento più buio a cavallo proprio del 2008, alcuni mesi del 2008. Ma se prendiamo il periodo fra il marzo del 2008 e il marzo del 2009, allora gli interventi sono stati addirittura, o meglio, le erogazioni di prestiti sono state addirittura per 9.000 miliardi di dollari, che significa poco più della metà dell'intero output americano, che per il 2010 è stimato in circa 15.000 miliardi di dollari. Dunque degli interventi colossali. Però a fronte di questi straordinari prestiti c'è stato un recupero, e cioè sono stati già ripagati quasi tutti, furono ripagati quasi immediatamente al suo tempo, ma l'esposizione che resta oggi è minima e secondo la Fed non presenta un rischio di insolvenza. Dunque finora la Fed non ha perso un dollaro nell'erogazione di questi straordinari prestiti ponte, che si confermano essenziali per la stabilità in un momento di crisi, soprattutto in un momento di attacco da parte dei mercati. Il terzo elemento riguarda il respiro delle erogazioni, perché la Fed ha concesso prestiti a breve a tutte le categorie che in qualche modo rappresentano l'economia reale, dunque non solo alle banche, che hanno fatto la parte del leone. Goldman Sachs per esempio ha ottenuto prestiti per quasi 600 miliardi di dollari in 52 occasioni diverse, ma poi Citigroup 1800 miliardi, Merrill Lynch 1500 miliardi. Ma la novità è che agli sportelli della Fed sono andate numerose aziende per generare liquidità sostitutiva a quella dei commercial paper. Il commercial paper è l'indebitamento a breve che le aziende utilizzano per pagare gli stipendi o i fornitori in attesa della rigenerazione di cassa. Fra le istituzioni c'è stata la Banca Centrale Europea, Banca Centrale d'Inghilterra, quella messicana, banche private, BNP Paribas, la UBS, banche giapponesi, banche tedesche. Non risulta, almeno dalla lettura che abbiamo fatto finora, che ci siano state banche italiane. La realtà delle cose è che le banche italiane, o comunque il sistema finanziario italiano, non era coinvolto direttamente in quella che è stata la prima crisi, la prima ondata di crisi finanziaria. Era in grado perfettamente di resistere a quest'ondata d'urto che si è proiettata sui mercati, perché non aveva l'esposizione. Il danno poi per le nostre istituzioni è venuto dalla crisi secondaria che ha colpito alcune delle banche corrispondenti. Dunque, questo ci conferma che da un punto di vista di situazione finanziaria, il nostro paese è più sano di quello che sembra. E dunque gli attacchi che ci sono stati negli ultimi giorni sui mercati, che hanno cominciato a dirigersi verso il nostro paese, hanno una natura di tipo speculativa, e questo naturalmente non è bello. Sentiamo sull'altro fronte la voce adesso di Erskine Bowles e Alan Simpson, i due co-presidenti della Commissione per la riduzione del disavanzo pubblico americano. Erskine and I are very pleased that we had not just the people you expressed and addressed, but we have Democrats and Republicans alike, and an independent, only one person vividly voted against it, and that's fine. That person, Jan Schakowsky, is added to the debate. She put in her own program. I've never been a numbers guy. This baby will never go away. It's an indigestible lump. The path we're on is unsustainable. I think this is the moment of truth. The American people get it. When Al and I go through airports, we get nothing but thumbs up. When I'm at home in North Carolina, people tell me, Erskine, don't weak out on this, stay tough, we gotta get this budget down. 4.000 miliardi di dollari di riduzione del disavanzo pubblico americano entro il 2020. Questo è l'obiettivo ultimo, colossale, ambizioso, difficile naturalmente, che ieri la Commissione Bipartisan sul deficit ha proposto a corredo di una serie di misure di austerity che porteranno, secondo un osservatore provocatorio come Paul Krugman, a un bagno di sangue politico la prossima primavera, quando si dovrà cominciare a discutere ed applicare le raccomandazioni. La Commissione ieri si è presentata senza quella maggioranza di 14 voti su 18 necessari per formalizzare una raccomandazione ufficiale di queste proposte al Congresso. Però c'è stato uno sviluppo importante, e cioè i due copresidenti hanno annunciato che ci sono stati 7 politici bipartisan, quindi c'è una componente bipartisan, che hanno votato a favore. E anche se venerdì, quando ci sarà il voto finale, non si dovessero raggiungere questi 14 voti, il fatto che ci sia un approccio bipartisan anche da una minoranza dei membri di questa commissione vorrà dire che il Congresso sarà responsabilizzato, il Congresso che arriva, davanti a un progetto che dovrebbe rimettere ordine nelle finanze americane, anche se nel medio-lungo termine. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Gli Spoon hanno appena messo sul mercato una raccolta composta da demo, versioni riviste di canzoni già conosciute, bonus song 2008-2009, e da giorni in vendita. Vi facciamo ascoltare The Way We Get By, che poi vuol dire il modo in cui ce la caviamo. We found a new kind of dance in a magazine. Try it out, it's like nothing you ever seen. You sweet talk like a cop, you know it. You bought a new bag of pot, so let's make a new start. And that's the way to my heart, to the way to my heart. That's the way we get by, to the way we get by. That's the way we get by, to the way we get by, to the way. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.